Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Non potevamo che iniziare con questa canzone, questa nuova puntata del Cacciatore di Libri, Parole e Musica, versione estiva che va in onda tutti i sabati alle 16. Perché abbiamo iniziato con questa canzone di Endrigo? Perché Io che amo solo te è anche il titolo dell'ultimo romanzo di Luca Bianchini pubblicato da Mondadori. Un romanzo veramente godibile, spassoso. Si racconta la storia di un fastosissimo matrimonio che deve essere celebrato a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Una ragazza, Chiara, sta per sposare Damiano. La madre di lei e il padre di lui invece erano stati innamorati in gioventù, ma costretti a lasciarsi per volere, insomma, delle famiglie. E in più poi c'è il fratello dello sposo che è gay, ma deve presentarsi al matrimonio con una finta fidanzata perché non può dichiarare la sua omosessualità. Insomma, un romanzo divertente che a volte fa anche riflettere. Abbiamo chiesto allora a Luca Bianchini perché ha scelto questo titolo. Guarda, questo romanzo si intitolato a lungo nel mio file di lavoro sul computer, Nella gioia e nel dolore, perché è la storia di un matrimonio pugliese, quindi mi piaceva una delle frasi celebri, no, che tutti noi ricordiamo durante almeno, insomma, la celebrazione in chiesa. E però c'era questa parola dolore. Io ho vissuto un periodo abbastanza complicato a livello personale, per cui ho iniziato a starmi un po' stretta, no? Mi faceva un po' paura in un titolo. E un giorno ero lì che dovevo andare avanti nella mia storia e avevo voglia solo di sentire questa canzone, per cui ho su YouTube con il video. Hai scaricato il video? No, non ho scaricato. Perché non sono capace. Guardavo e riguardavo, l'ho vista e l'ho ascoltata cantata da chiunque, ti posso dire, anche chi sono i più bravi dopo Sergio Endrigo. Facciamo i nomi. La Vanoni è stata a lungo, ecco, in pole position, bene. Però poi mi è piaciuto molto anche Massimo Ranieri, anche Gianluca Grignani, che è una versione un po' sdrucita, e quindi ho detto, ma perché, insomma, a un certo punto ho detto, ma potrebbe essere un titolo. Poi ho contattato la figlia di Sergio Endrigo per chiedere un po' l'autorizzazione, anche se lei non ha più i diritti della canzone, comunque ti hanno detto di sì. Allora, l'hai già accennato tu all'inizio della nostra intervista, tutto inizia con un matrimonio che si deve celebrare a distanza di 2 giorni a Polignano a Mare, provincia di Bari. La cosa mi ha reso felice perché io sono nata e cresciuta a Bari e quindi conosco quei luoghi benissimo, anche quei modi di dire, quei modi di fare che tu racconti perfettamente in questo romanzo. Innanzitutto il personaggio della mamma della sposa, stupenda, chi è? È Ninella, è la vera protagonista poi in realtà di questa storia, una donna di 50 anni che però è un po' fuori dal tempo. Lei è una tipica donna del sud che ha una grande forza e un grande carattere e soprattutto ha una dote che noi non abbiamo più, è quella di saper aspettare. Lei è lì, e questo è tipico, no, al sud. Io sono poi per metà meridionale, quindi posso, anche se non pugliese, per cui anche però pensa, puoi testimoniare questa dote delle, sì, donne del sud. Si sa aspettare, non si dimentica, e le parole dette hanno un valore, e queste sono tutte caratteristiche che Ninella ha, che ha avuto un grande amore nella vita, che è Don Mimì, quest'uomo, che non ha potuto sposare perché le famiglie si sono messe di mezzo, e però si sposa con un altro uomo, lui si sposa con un'altra donna, i loro figli si innamorano. E sono destinati a sposarsi. E si sposano, quindi loro, tutti e due, anche se non si parlano, si salutano appena, giusto la domenica, quando si incrociano, tutti e due sanno che quella è un po' la loro rivincita, no? Che del destino. Insomma, i figli riescono a realizzare quello che loro non sono riusciti a realizzare in vita. Eh sì, però i figli hanno una relazione un pochettino più sbiadita. E allora parliamo di questi figli. Da una parte c'è Chiara, la figlia appunto di Ninella, e dall'altra c'è Damiano, che è il figlio di Don Mimì, che sembrano quasi volere questo matrimonio non per vero amore, lei più che altro perché, insomma, si vuole sistemare, e lui più o meno per la stessa ragione. Lei più che sistemare è innamorata dell'idea del matrimonio. Cioè lei vive tutto l'eccitazione solo per quel giorno lì. Non si è mai posta il problema, ma poi ci sarà una vita insieme, i giorni. Per lei la festa è tutto, si gioca tutto lì, no? E l'organizzazione è talmente dettagliata che a tratti può essere comica o anche, non voglio dire inquietante, però divertente. L'organizzazione fine dei matrimoni pugliesi sono, cioè, un vero evento, insomma. Però la cosa che poi succede loro, e mi è piaciuta soprattutto poi raccontare, e non era prevista, è che in questi preparativi dell'ultimo minuto loro si rendono conto in realtà che hanno una forte attrazione l'uno verso l'altra, la davano un po' per scontata, mm-hmm, questa relazione, e invece le titubanze dell'ultimo minuto che tutti e due hanno, perché comunque dire sì in chiesa e in generale in un municipio quando ci si sposa è una promessa vera, è un po' come quando stai per acquistare un biglietto online d'aereo, non so se ti è mai capitato che tu inserisci tutti i dati, acquista ora, in quel momento lì ti scatta l'ansia, la paura, e rilegge e dice oddio, ma devo partire quel giorno, la città di partenza è la stessa, e dopo che hai cliccato vai di nuovo a vedere perché dici avrò fatto un errore. Altra scena che mi ha molto divertito nei preparativi di questo matrimonio veramente fastosissimo, il fotografo, cioè le prove, i filmini realizzati anche il giorno prima sullo scoglio di Polignano, eccetera, che sono cose che veramente si fanno in Puglia. Tu come hai appreso tutta questa tradizione pugliese che appunto non è tua? Io ho appreso perché una sera a cena ero a Polignano per presentare il libro precedente che era tutto ambientato a Venezia, e io ho fatto più presentazioni ricordiamo il titolo, Siamo solo amici, ecco. Ho fatto più presentazioni in Puglia che nel resto d'Italia, e c'era qualcosa di strano. Quella sera a cena iniziano questi ragazzi che mi avevano presentato e accompagnato a parlare tra loro di matrimoni, e io mi zittisco. Tu mi hai visto un po' di volte, sì, sai che sono un gran chiacchierone, e immaginati, non solo sono muto ma attento, per cui ho detto cavolo, ma c'è qualcosa dietro. Parlavano di prefilm, di scollature, dissertazioni sulle bomboniere, ma molto serie, caro mio. Il giorno dopo apro le finestre di questo bed and breakfast dove ero, sugli scogli, insomma, bellissima vista, e trovo due coppie di sposi che si fanno le foto inseguiti da un fotografo che gli dice tu baciala, amala, no, tu non sei più convinta. Cioè delle cose incredibili, veramente per un me. Film, un set fotografico viene messo su, insomma. Ho confidato a queste persone che mi sarebbe piaciuto, non sapevo ancora, un romanzo, ho detto mi piacerebbe scrivere qualcosa, e mm-hmm, la Puglia è così, ho detto questo, tempo zero, avevo un invito a un matrimonio vero della loro cugina. Ah, quindi hai proprio potuto toccare con mano, insomma, cavolo, il matrimonio pugliese che inizia in genere al mattino e finisce a luna di notte, questa è la tradizione. Sono andato a più di un matrimonio, ospite loro, una volta ero il cugino di Torino, una volta mi hanno messo al tavolo del fotografo, degli intrattenitori. Ti sei divertito, insomma. Beh, è veramente sì, un'ondata di affetto, perché poi le persone sono entusiasmate tutte, certo, no? L'idea, e per loro era normale, questo è interessante. Certo che è normale. Tornando ai protagonisti del tuo romanzo Io che amo solo te, abbiamo visto c'è Ninella che ha avuto una relazione con Don Mimì, il classico uomo, insomma, forte del paese, che è un punto di riferimento anche sociale nel paese. C'è Chiara e lo sposo Damiano, e c'è il fratello di Damiano che è gay. Spesso ci sono dei personaggi gay nei tuoi libri. Ci sono sempre sì, praticamente, sì, infatti, che io ricordi. Non può mancare. Come si comporta questo ragazzo? Beh, a me piace sempre giocare un po' sugli stereotipi, ma per trovare un po' il punto debole o la fragilità dello stereotipo, no? Anche il padre dello sposo, che è il classico uomo del sud ricco con la collana d'oro, cioè a me piace proprio immaginarlo così, però poi ha una poesia lui nelle cose che dice, nei sentimenti che prova, che magari ti spiazza. E Damiano è il fratello gay, che in realtà tutti lo sanno, ma nessuno lo vuole dire. No, Damiano è quello che si sposa. Sì, Damiano, sì, ho detto Damiano. Hai detto Damiano. Perdonami, Orlando. Orlando. Si chiama Orlando, dato un nome che non poteva esistere a Polignano, mi sono informato ecco, in modo così che non c'è non ci problema. Fossero riferimenti. E Orlando appunto vive questa omosessualità più che altro con un po' di colpa nei confronti della famiglia, perché non vuole tanto deluderli, ma non che in realtà poi la Puglia ormai, cioè dopo Nicky Vendola, è molto rilassata, però lui comunque non li vuole deludere, allora si presenta al matrimonio con una finta fidanzata lesbica. Mi ha ricordato un po' Mine Vaganti in questo, no? Che non vogliono fare la confessione. Però non lo so se è simile, però io mi sono molto divertito, sono venute fuori anche un po' la mia vena da commedia, perché la ragazza lesbica, che di solito veste in modo un po' più sobrio, lui aveva paura che si notasse, no? Che potessero gli ospiti insospettirsi della loro relazione fasulla, per cui dice mi raccomando femminile e lei esagera nella femminilità, per cui tutti la guardano come se fosse una poco di buono. In questo romanzo tu hai usato anche un po' il linguaggio tipico pugliese, sto a fare questa cosa, ancora dei cadi. Modi di dire, ancora cadi, sì. Vuol dire caso mai dovessi cadere. E questo linguaggio così come l'hai imparato? Ma insomma? Io ho un buon orecchio, nel senso che sono stato tanto a Polignano, ho scritto anche un sacco di capitoli lì, mi hanno prestato questa casa sugli scogli, per cui ero proprio dentro il mare, dentro i suoni, per cui dopo un po' ti entrano, io poi sono abbastanza attento, per cui quando io arrivo loro riportano il discorso dicendo sta Luca, che vuol dire è arrivato Luca. Sì. E poi c'è questa frase tormentona, che poi in realtà in Puglia ci sono tante sfumature di dialetto, certo. Per cui questo è polignanese, già monopoli, monopolitano un po' diverso. E la mia frase tormentona è hai capito un fatto, che vuol dire hai capito. Hai capito. E io l'ho messo, non ti sto a dire quanto ci ho messo a trascriverlo, perché avevo i pugliesi al telefono, lettera per lettera, ma veramente altro che cirillico. Sì, con sì, ma spesso anche diere, si dice sì. Che dici tu, che nel senso che cosa ne pensi. Un'altra cosa bella è che proprio l'inizio del romanzo è tutto concentrato sulla preoccupazione che il giorno delle nozze ci sia il maestrale, questo vento che è un po' così protagonista di sfondo, possiamo chiamarlo così, di questo matrimonio. È bella questa idea del vento. Ma tutto è nato, lo spunto mi è arrivato dal matrimonio vero cui sono andato, che era un matrimonio veramente ben organizzato, molto anche sfarzoso, da anni lo preparavano, e la sposa mi aveva confessato: io ho solo paura del vento. E quel giorno era entrato il maestrale, per cui io ho vissuto proprio da vicino, già mentre atterravo a Bari ho detto cavolo che mare è mosso oggi. Poi sono sceso e ho capito, ma il maestrale mi piace molto perché assomiglia all'amore, cioè è un vento che non viene preannunciato, arriva quando meno te lo aspetti, e lì quando arriva decide lui dove mollarti, quanto durare, no? Può durare un giorno o tre giorni o una settimana, esattamente. E nel loro caso non ti posso dire, c'è ancora la possibilità che duri un giorno. Non diciamo assolutamente come va a finire. Prima all'inizio dell'intervista dicevo che avremmo ricordato anche gli altri tuoi romanzi, tu avevi esordito nel 2003 con Instant Love, poi Ti seguo ogni notte, Se domani farà bel tempo, di cui avevamo parlato anche a Radio 24, idem per Siamo solo amici del 2010. In genere che rapporto hai con la scrittura? Come ti nasce l'idea di un romanzo? Nasce sempre quando meno te lo aspetti, devo dire. Soprattutto io ho capito, più vado avanti a scrivere, che devo pensare, non devo quasi pensare ai lettori. Ho fatto forse degli errori dopo Instant Love, che ovviamente essendo un romanzo d'esordio è quello che è più privo di sovrastrutture, no? È più, più ruspante, vero. Insomma, sì, è magari più semplice. Non è il più bello come scrittura, ma è il più vero, certo. No? Questo vale anche per il cinema, perché ci innamoriamo sempre dei primi film, delle prime gag comiche, no? Perché lì tu sei più vero e meno consapevole di quello che stai facendo, quindi rischi di colpire di più il cuore delle persone. Però ho cercato di ritrovare quell'emozione non pensando più ai lettori. Io ad esempio non pensavo, ho detto ma chi può interessare la storia di un matrimonio pugliese, ma interessava a me, per cui veramente ho detto non importa, devi fare questo per divertirti, per stare bene. E incredibilmente mi rendo conto che anche tipo a Milano o a Torino questa storia di un matrimonio pugliese piace molto, perché poi tutti sono invitati alla festa. E per celebrare il suo romanzo, Luca Bianchini ha scelto la canzone Estate dei Negramaro. Noi ci sentiamo dopo la viabilità. In bilico tra santi e falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho spesso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Il cacciatore di libri. L'avete riconosciuta? The Wall dei Pink Floyd, canzone che viene citata nel romanzo di cui parliamo ora, si intitola Ti volevo dire, l'ha scritto Daniele Bresciani, pubblicato da Rezzoli. È la storia intrecciata, diciamo, di una ragazza che perde la voce da adolescente alla morte del padre. Si seguono quindi le vicende di questa ragazzina e nello stesso tempo la ragazzina legge alcuni diari del padre e ricostruisce il suo passato vissuto in parte a Londra e comunque in Gran Bretagna negli anni Ottanta. Da qui le varie citazioni musicali come appunto quella dei Pink Floyd. Un romanzo che per Daniele Bresciani è decisamente autobiografico. Ci sono le mie fragilità, le mie paure di genitore, la mia incapacità per troppo tempo di parlare, di esprimere i sentimenti più profondi con le persone che mi stavano vicine. Io assomiglio un po' al protagonista maschile del romanzo, che è Giacomo. Sì, c'è molto, poi c'è Londra, io ci sono stato un po', c'è il problema del linguaggio di Viola, che lei ha un problema vero, che è mutismo selettivo, mentre io ho un bambino, Luca, mio figlio, che ha avuto un problema di linguaggio da piccolo e che mi ha messo molto in ansia. Allora, entriamo proprio nella trama di questo romanzo. Ti volevo dire, così gli ascoltatori un po' capiscono anche i tuoi riferimenti personali e autobiografici. La storia è costruita a capitoli alternati. Giacomo e Viola. Giacomo è il papà di Viola e si vede la vita di entrambi quando sono ragazzini. Viola è una 14enne, 15enne alla morte del padre, si capisce subito, insomma, dall'inizio del romanzo, inizia lentamente, nel giro di poco tempo, a perdere la voce e a non parlare più, si diceva prima il mutismo selettivo. E nello stesso tempo si segue la vicenda di Giacomo, del padre, quando aveva circa 20 anni, appunto, era stato a Londra. Questo perché, insomma, la figlia trova dei diari, delle agende del padre che gli vengono consegnate appunto da un suo amico e quindi ricostruisce anche un po' la storia. Allora, andiamo per ordine. Parliamo prima di Giacomo. Chi è Giacomo? Come l'hai costruito questo personaggio? Giacomo è, appunto, come hai detto, il romanzo comincia con la sua morte da uomo adulto, da cinquantenne, per un problema di cuore, e tutto invece il romanzo racconta un anno della sua vita, più o meno, intorno ai 20 anni. Giacomo era un ragazzo come molti che ha avuto della mia generazione, che ha fatto una vacanza studio a Brighton in Inghilterra. E lì si è innamorato di una ragazza. Giacomo però è fondamentalmente un fifone, uno che ha paura delle sue emozioni, uno che ha paura di prendere delle decisioni, è uno che non si decide mai a dire esattamente quello che pensa e un po' per caso, più che per volontà vera, trova l'occasione e va a lavorare a Londra. E va a lavorare a Londra, a quei tempi c'era servizio militare obbligatorio. quindi lui trova anche l'occasione, per non farlo. E qui vive la Londra degli anni Ottanta, perché poi l'anno che passa a Londra è fra il 1980 e l'81, esattamente, insomma. Esattamente, era una Londra molto, molto vivace, Londra ancora adesso è una città vivace, però allora era la Londra dei Pink Floyd, di David Bowie, cioè alla fine degli anni 70 Londra è stata molto, molto ricca di avvenimenti, di novità. Di stimoli proprio. E tu nel romanzo metti tantissima musica, tra l'altro, molte citazioni musicali dell'epoca appunto di Giacomo e le metti in contrasto invece con quelle dell'epoca di Viola, che è una ragazzina del 2000. Eh sì, perché c'è la musica mia e c'è quella che io devo subire costantemente dai miei figli. c'è la musica mia e quindi sono i Pink Floyd, quella musica, e poi ci sono Lady Gaga o Beyoncé, che io non posso fare a meno di ascoltare, perché i miei figli vogliono sentire quella, quindi ne ho messe tutte e due. Ho fatto un po' come Giacomo, sono stato in mezzo, ecco. In mezzo alle due tendenze musicali. Allora, dicevamo, Giacomo 20 anni, passa un anno a Londra, si è innamorato di questa Claire e si seguono, insomma, le sue avventure. In contemporanea nel romanzo segue invece la vita della 14enne e della 15enne Viola, che ha questo problema. Sì, del lei perde, smette di parlare nel momento in cui trova il papà morto, e per lo shock, è una cosa che può succedere, il mutismo selettivo è un problema reale. E lei scopre però il genitore che non conosceva, perché noi da figli abbiamo la tendenza un po' a considerare che la vita dei nostri genitori cominci nel momento in cui arriviamo noi. In realtà loro sono stati ragazzi, hanno avuto i loro amori, le loro delusioni, le loro gioie, le pianti, risate, come noi, come tutti. Però quella parte, un po' per pudore, è un po' per una vergogna un po' stupida, no? Perché l'altro giorno sono andato in una scuola a parlare e ho chiesto ai ragazzi, ma quanti di voi hanno chiesto ai genitori se hanno avuto prima degli amori? Certo. Prima... come si sono innamorati, che cosa facevano prima. E un paio mi hanno detto, ma sì, io gli ho chiesto, però non me l'hanno voluto dire perché si vergognavano. Invece quella è vita, no? Cioè noi quella vita ce l'abbiamo dentro e spesso ci sono dei nodi grossi, dei nodi che non sciogliamo. E invece perché non raccontarli alle persone che ci sono più vicine? Chi c'è di più vicino dei genitori? E infatti c'è un nodo in questa storia, perché attraverso un po' questi diari del padre, Viola inizia a capire che c'è stato qualche problema proprio emotivo da parte del padre. Eh sì, Viola capisce che quell'amore non era stato un amore qualsiasi, non era stato, c'era stato qualcosa di più, e quindi le viene voglia di capire, di scoprire, di scoprire un padre che lei non conosceva, perché da quelle lettere, da quelle agende che riceve, vede qualcosa che per lei è nuovo, che non aveva mai preso in considerazione. E anche grazie a una compagna di stanza che troverà in questo collegio, piano piano, passo dopo passo, riesce a capire un po' meglio quell'uomo che improvvisamente non c'è più stato. Senti, ma secondo te è giusto che dei figli adolescenti appunto sappiano tutto della vita dei genitori adolescenti, o c'è un'età diversa per scoprire il passato dei propri padri? Io non lo so se è giusto. Io penso che sia giusto sentirsi liberi di chiedere, e credo che questa sia la cosa più bella, cioè la libertà. Cioè, se un figlio, un ragazzino, non ha paura di dire al proprio genitore qualsiasi cosa, perché, e non teme le conseguenze di quello che dice o di quello che fa, cioè è ovvio che se sfascia la macchina contro un negozio, entra in un negozio con una macchina, magari qualcosa, cioè, anche io avrei timore a dirlo a mio padre, però sui sentimenti, sulla vita di tutti i giorni, io credo che sia bellissimo, davvero bellissimo, quando un ragazzo non teme di confrontarsi col proprio genitore. Credo che sia un rapporto. Poi il genitore ovviamente è grande e deve valutare che cosa dire, che cosa non dire, come deve saper bilanciare le parole. Però questa è la cosa importante, secondo me. Da Daniele Bresciani e il romanzo Ti volevo dire, passiamo allo spazio degli audiolibri. Se volete rilassarvi, ma soprattutto farvi tante risate, divertirvi, l'audiolibro che fa per voi è La briscola in 5, pubblicato da Emons. Il romanzo era stato scritto alcuni anni fa da Marco Malvaldi, scrittore toscano veramente spassosissimo. Questo libro è tra l'altro il primo della serie del Barlume. Il Barlume è il bar di questo paese immaginario del Livornese, dove i vecchietti si incontrano e fra una chiacchiera e l'altra finiscono per risolvere dei delitti, dei gialli, insomma, che avvengono appunto in questo paesino o nei intorni. La briscola in 5 era appunto il primo romanzo, poi c'è stato Il gioco delle tre carte, Il re dei giochi, la carta più alta, questa solo per rimanere ai romanzi di Malvaldi della serie Barlume. E allora sentiamo un estratto della briscola in 5 letto dall'attore toscano Alessandro Benvenuti. Boiade, non si despida dal caldo. Te guarda, per questa fetta minchia del fusco mi vado a chiappare la madre di tutte le insolazioni. Accidenta alla sua di madre, quel tegamaccio marcio senza manico. Questo era tutto quello a cui Massimo era in grado di pensare mentre andava verso il commissariato. Per stare al fresco passò dalla pineta e allungò un po' la strada. Prese macchinalmente una sigaretta. ma con quel caldo pensò che non se la sarebbe goduta, quindi la rimise nel pacchetto e continuò a camminare. Camminando, guardava per terra e catalogava sopra pensiero rifiuti di cui la pineta era ricca. Cartone di coca, carta dei panini, è la mia? Sì, bravi ragazzi. Penna, incarto di preservativo, ma come fanno? Io avrei paura. Poi ti vanno gli aghi di pino nelle chiappe, ti fai male, mo. Avanzi di rigatoni, questi sono i peggio. I rigatoni al pomodoro al mare, Dio buono. Ce n'è certi che si portano anche i cacciucchi e i piatti di ceramica e il vino. I fiorentini, poi, loro, sono davvero in massimo. Sembra che debbano organizzare un assedio. Si portano tutto. Pane, prosciutto, pinne e occhiali, coccodrillo di gomma per il bimbo e quintali di derrate alimentari. Per forza ne affoga 10 l'anno. È da stupirsi che non muoiono di congestione direttamente in pineta. Perlomeno qui, se parlo da solo, nessuno mi sente. Tuttavia, si azzittì. Uscito dalla pineta, aveva dovuto fare solo un centinaio di metri per raggiungere il commissariato, ma erano bastati avanzati per farsi un bel bagno di sudore. Massimo non sopportava nemmeno l'idea di essere sudato, lo metteva a disagio. Entrò in commissariato e si sedette su un divanetto, stese le gambe sul divano e si rassegnò ad una lunga attesa. E invece, sorpresa, Fusca uscì dallo studio e lo chiamò dentro. Lì, in evidente posizione da interrogati, c'erano una ragazza sui 17 vestita con un top verde che serviva solo come evidenza puppe e una microgonna arancione che così conciata sembrava la nipotina di Cher e un ragazzo un poco più grande. E anche per oggi è tutto, vi ricordo l'appuntamento speciale estivo con il cacciatore di libri, parole e musica ogni sabato alle 16 e poi come sempre le puntate tradizionali sempre il sabato alle 6.45 e alle 21 dopo il GR. Buona lettura da Alessandra Tedesco.